lo fanno le persone normali, lo fanno tutti gli uomini, dal disoccupato al critico al nobile. È stato accusato di estorsione nei confronti di una donna. Uomo, vigile urbano, uccide moglie e tenta suicidio. A Brescia uccide l'ex moglie e altre 3 persone. L'uomo ha prima sparato in strada alla donna e un suo amico, poi a casa della ex ha ucciso la figlia 20enne avuta da una precedente relazione e un suo coetaneo. A Verona un uomo strangola la moglie con un foulard. A Piacenza un uomo uccide una donna sparandole alle spalle e poi fugge in bicicletta. A Torino un uomo accusato di aver ucciso la vicina di casa di 81 anni. A Faenza, un uomo di 17 anni, violenta a scuola, la compagna di classe. I dirigenti scolastici consigliano di non denunciare l'accaduto per il buon nome della scuola. A Pisa, uomo adesca ragazzina su social network e la violenta. A Genova, un uomo di 56 anni ha maltrattato la moglie per anni, costringendola a mangiare gli avanzi su un tavolino basso, minacciandola di morte davanti al figlio. Piccolo approfondimento sui femminicidi ci apre a un altro più grande approfondimento, molto più denso, più discorsivo di quello appena fatto, sul contrasto alla violenza sulle donne. Si intitola Rompiamo il silenzio e ci saranno con noi in studio la cooperativa Be Free, che è una cooperativa che lavora contro la tratta, le violenze e le discriminazioni, e il centro antiviolenza Donna Lisa. Get you along. Hey, playgirl. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotta, lotto. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Perderte después. 24 ore di diretta radiofonica. Entra anche tu nel mito. MFLA su Radio Onda Rossa. What an amazing time. What a family. How did the years go by? Now it's only me. Think. Do you like it? Do you not like it? KYSR. This guy. quando sono le 20 e 16 minuti, entriamo nella 20ª ora ininterrotta di maratona, le compagne e le donne continuano ad ascoltarci, ci fanno una richiesta alla quale non possiamo dire di no. Ginevra Di Marco con Ma la razza, e poi cominciamo con l'approfondimento. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Eh sì, donne grandi e piccoline, questa è per voi, va. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiare un bastone e tira fora i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiare un bastone e tira fora i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiare un bastone e tira fora i denti. Non servo tempo fa, in una piazza, gridava Cristo in croce e ci dicia: Cristo lume padrone, mi strapazza, mi tratta come un cane di la via, si picchia tutto con la sua mano. Radio Onda Rossa, 24 ore di trasmissioni in diretta di femministe e lesbiche. Fra poco lo spazio Rompiamo il silenzio, una trasmissione sul contrario. Abbiamo scelto noi il titolo. Vediamo, visi stupefatti che si guardano. Non è, siete voi. La trasmissione sul contrasto alla violenza contro le donne con Be Free e il centro Donna Lisa. Quindi fra pochissimo. E con l'occasione ovviamente salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori da internet, in streaming, da tutta Italia. Un abbraccio caloroso qui da noi. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiare un bastone e tira fora i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchiare un bastone e tira fora i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? La mala razza cuvola.